Cerco un ufficio postale aperto, perché se no qua sclero e non riesco più a pagare le bollette. Puoi andare dal tabaccaio a pagare le bollette. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Si vede, si va, di umana commedia, che c'è chi la spiega e c'è chi viveva. Si vede, si va, comunque fischiando, cantando un motivo, ci serve comunque un motivo. Deborah. Vabbè, dipende di quale motivo stiamo parlando. Diciamo che il motivo di 3 bottiglie di vino, che pure, ecco, vabbè, in questo periodo magari non è stato ritenuto però sufficiente. Effettivamente, no, ecco, diciamo, lo stato di necessità era un po' complicato da sostenere con le 3 bottiglie di vino, però è quello che è successo appunto a Vigliano, nel Biellese. Un signore che è stato multato dai carabinieri, è andato a fare la spesa, sì, però ha comprato solo 3 bottiglie di vino. Possiamo dire, no, che in realtà c'era anche una busta di pasta, un pacco di pasta, mi pare, nel carrello della spesa, ma diciamo che il bilanciamento fra i vari generi non è stato considerato adeguato dai carabinieri, che lo hanno fermato e multato. Tra l'altro, 102,50 € di multa, Mauro, E quindi non è che, cioè, gli è costata cara sta spesa. Chissà se gli hanno poi lasciato le 3 bottiglie di vino, gliele hanno pure confiscate, perché così, insomma, esatto, verrebbe, lo ha pagato, insomma, un vino di, diciamo, di un discreto pregio, per dir così. Però hanno poi spiegato, hanno spiegato alla stampa, i carabinieri: guardate, qui non è che conta l'importo della spesa, uno può anche uscire, comprare soltanto un po' di pane, un po' di carne, un po' d'acqua, però le 3 bottiglie di vino non possono essere considerate una necessità. Allora, per estensione, giustamente, si comincia a ragionare: ma allora se esco e compro solo, che so, il tè alla pesca piuttosto che la Nutella può essere considerata una necessità? Non lo so, facciamoci anche di queste domande, tanto, come dire, di tempo ne abbiamo, specialmente se cerchiamo di metterci in contatto col sito IMSS, mi verrebbe da dire, no? Perché ci sono state delle difficoltà anche ieri. Ci sono state delle difficoltà anche ieri, però guarda, abbiamo proprio un bilancio fresco fresco rispetto alle domande per le prestazioni previste appunto dal decreto Cura Italia, che sono pervenute telematicamente alle 8 di questa mattina all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che naturalmente è ancora alle prese con i rallentamenti del caso, ma fino a questo momento sono state 2.456.101 appunto le domande pervenute all'INPS, che significa aver fatto richiesta di prestazioni varie da parte di 5.100.000 beneficiari. Per quello che riguarda, per esempio, le indennità da €600, sono state inoltrate al momento 2.092.000 appunto domande, 184.201 domande per la richiesta di congedi parentali, 20.468 domande per il bonus babysitter, circa 100.000 domande per quello che riguarda la CIGO, la cassa integrazione, e per 1.939.000 beneficiari. E quindi, insomma, questi sono un po' gli ultimi numeri, come dicevo, di un bilancio fresco fresco alle 8 di questa mattina. Avremo modo anche di segnalarvi altre cose che riguardano appunto alcuni di questi bonus proprio nel giornale Radio del Risparmio, ma prima volevo dare ai nostri ascoltatori e soprattutto alle nostre ascoltatrici il temi della nostra puntata. Deborah. Assolutamente sì. Allora, il primo, ne parleremo nella prima parte della trasmissione, perché ci ha ancora una volta chiesto aiuto un avvocato, Giorgio Vaccaro, che si occupa di problematiche legate alla famiglia. E allora, a quanto pare, molti papà separati sono in difficoltà nel pagare, nell'erogare questo mese l'assegno di mantenimento per mogli e figli, e questo è un tema sociale molto importante, per cui abbiamo voluto di nuovo ridare attenzione all'argomento, perché chiaramente è una situazione di difficoltà che rischia appunto di amplificare ulteriormente già il malessere sociale nel quale queste categorie in particolar modo si trovano. Allora, che cosa si può fare, come si può risolvere momentaneamente questo problema se effettivamente queste persone, questi papà, magari hanno dovuto interrompere il lavoro in questo mese, oppure sono in cassa integrazione per cui l'entrata è inferiore e non riescono chiaramente a rispettare questa scadenza, allora cercheremo di capire se ci sono delle soluzioni per queste persone. Poi nella seconda parte della trasmissione parleremo invece di leasing, perché anche questa è una forma di prestito che può essere sospesa temporaneamente sulla base delle disposizioni delle Cure Italia. Giusto, è vero, Mauro? È proprio così, e ce lo spiegherà naturalmente Enrico Duranti, presidente di Assilea, l'associazione italiana del leasing, e poi lui è anche al vertice appunto di Icrea Banca Impresa. I numeri di telefono per entrare in contatto con noi sono quelli abituali: 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Ricordo anche la casella di posta elettronica, la riserviamo un po' ai casi più intricati che poi sottoponiamo ai nostri esperti, naturalmente, 2didenari@radio24.it. Tutto ciò premesso, e ringraziando Valentina Ternullo che oggi affianca qui in prossimità sul territorio, praticamente in studio, insomma, l'ottimo e onnipresente sempre ancorché da remoto Marco Lombardo, ringraziamo pure la regia e chiediamo cortesemente se può mandarci la sigla del giornale radio del risparmio. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Io credo che dobbiamo fare uno sforzo molto importante per mobilitare tante risorse ferme nel sistema produttivo per rilanciare le nostre imprese. Guardi, gli italiani hanno 1.400 miliardi di euro fermi sui conti correnti o in liquidità. Noi dobbiamo inventare non patrimoniali, ma strumenti che permettano di convogliare queste risorse verso l'economia reale, verso il sistema produttivo, per fargli investire nell'economia italiana. 1.400 miliardi fermi che le famiglie in questi anni hanno lasciato sui loro conti correnti, perché per prudenza, perché era un paese che psicologicamente era bloccato. Noi dobbiamo rompere questo meccanismo e trovare tutti i canali possibili e immaginabili, adesso nell'emergenza per garantire liquidità, ma poi per rafforzare il nostro sistema produttivo. Allora Mauro, caro Mauro, posso dire una cosa? Allora, certo. Intanto dico a questo governo, vi eravate inventati i PIR, anzi no, diciamo, arrivava, come dire, lo strumento dei PIR da una fase precedente, avete fatto di tutto per ostacolarli e inceppare quell'industria modificando i criteri di investimento in questi strumenti, e quindi già qualcosa c'era, quindi magari basterebbe un po' semplificare la possibilità di investimento di questi strumenti, renderli un pochino più chiari e non modificare sempre le condizioni ogni anno a seconda appunto del governo di turno. E questo è il primo editoriale di questa mattina. Sono ben di più peraltro i soldi fermi sui conti correnti degli italiani, perché sulla base delle ultime statistiche sono 1.700, e quindi bisognerebbe anche capire se poi gli italiani che risparmiano così duramente sono contenti di investire nell'economia reale. Perché io ci aggiungo, Mauro, un messaggio che ci è arrivato da parte di un ascoltatore che si chiama Giuseppe, sì, che ci ha segnalato, a seguito della trasmissione fatta ieri, per la quale, come tu sai, non ero stata molto contenta, Giuseppe ci ha scritto: io vi seguo da tanti anni, l'ho sempre ritenuta la vostra una trasmissione di servizio, e voglio fare un appunto perché da parecchio tempo, chiedo alla regia se gentilmente mi abbassa un po' la musica sotto perché da casa è un po' fastidiosa, grazie. Vorrei fare un appunto perché non ricordo più da quanto tempo il giovedì di Investire Informati lo organizzate secondo certe modalità. Continuate a dire che c'è tanta liquidità sui conti correnti, di non credere a chi promette grossi rendimenti, questo comunque è sempre un messaggio che noi sottolineiamo, e avete il consulente di turno, l'amministratore delegato di una società di turno, indipendente o meno, che racconta la sua storia e il suo prodotto. Non trovo più varietà di informazione. La sintetizzo, la mail dell'ascoltatore, per esempio, perché non parlate del conto di deposito, che adesso è una soluzione di risparmio tanto ricercata, ma le banche non lo propongono. Allora Giuseppe, io intanto le dico che lei ha ragione, e noi torneremo, lo promettiamo con Mauro, a fare più trasmissioni di servizio se questo in questo momento è il vostro bisogno. C'è anche da dire che il conto di deposito non lo fanno al momento tante banche, l'offerta di questa soluzione era molto proposta imposta tanti anni fa, quando le banche facevano fatica a fare raccolta sul mercato, per esempio nella fase successiva alla crisi dei mutui subprime, le banche non si prestavano denaro fra di loro, quindi avendo bisogno di fare raccolta la facevano fra i risparmiatori e quindi chiaramente proponevano conti di deposito ad alto rendimento. Adesso ce ne sono un po' meno, non è detto che prossimamente le banche non ritornino su queste soluzioni, ma se questo comunque è il vostro bisogno, noi cercheremo anche di darvi maggiori informazioni su quegli strumenti che veramente ritenete possano proteggere in questo momento quanto faticosamente si potrà risparmiare prossimamente, perché poi questa è anche un'altra sfida. Vedremo nei prossimi mesi, con questa grave problematica nel mercato del lavoro, come si potrà continuare a risparmiare. Mauro. Io tornerei un secondo, proprio un secondo, su quanto ha detto Antonio Misiani, il Vice Ministro dell'Economia, su questi 1.400, ha detto lui, in realtà 1.700 miliardi fermi sui conti correnti, immobilitarli. Allora, effettivamente, come si fa? Bisogna probabilmente incentivare anche chi ha delle attività a far confluire questa liquidità sulle proprie attività, che in questo momento passano un momento difficile, passano una fase molto difficile. Gli strumenti, appunto, ci sono gli strumenti del risparmio, i PIR che ricordava Debora, ci sono gli strumenti fiscali che forse possono essere utilmente potenziati. È una fase, questa lo dico così pacatamente, non solo inedita, proprio di emergenza totale. Allora probabilmente servono anche da questo punto di vista, cioè per convincere chi ha più liquidità disponibile a utilizzarla, servono degli strumenti emergenziali, di emergenza evidentemente mai sperimentati e forse anche assolutamente così inediti rispetto a quello che potrebbe essere un periodo normale. Debora. No, volevo che tu mi aiutassi a decifrare un attimo, se puoi, naturalmente, questa notizia che abbiamo pubblicato noi stessi oggi del Sole 24 Ore. È partito, cioè sarebbe pronto al via il bando per il bonus Enasarco, che è l'ente di previdenza per il mondo del commercio, ma anche per il mondo della consulenza finanziaria. Allora, mi pare di aver capito che il Consiglio di amministrazione dell'ente abbia stabilito criteri e modalità per erogare contributi straordinari per quest'anno, che sono stati stanziati a favore degli iscritti in difficoltà a causa appunto delle Covid-19. Si parla di uno stanziamento pari a qualcosa come 8.400.000 euro. Allora, chi potrà fare richiesta? Agenti, rappresentanti di commercio e consulenti finanziari che hanno avuto un reddito per l'anno 2018. Quindi si sì, va perché andiamo a guardare il modello unico del 2019, che deve essere perfetto. Questo per l'anno 2018, prego. No, quindi non superiore a 40.000 euro, rilevabile però chiaramente dal modello unico dello scorso anno. Volevo una precisazione, proprio ti chiedevo aiuto, perché mi pareva di aver capito che per esempio il mondo della consulenza finanziaria potesse fare richiesta anche per i 600 euro di indennità che vengono riconosciute appunto a tutte le partite IVA, motivo per il quale si è intasata l'INPS l'altro giorno. E quindi mi pare di capire che entrambe le cose possono essere chieste dalla medesima categoria. Io mi azzardo a dire che è così, che i due strumenti sono erogati per due finalità diverse, da due enti diversi, e quindi possano essere compatibili. Vedremo, perché il bando effettivamente deve essere pubblicato oggi sul sito della Fondazione Enasarco, quindi da lì avremo la conferma definitiva. Una cosa importante, il bando viene pubblicato oggi, ma lo dico, se volete lo scandisco anche, faccio proprio una sillabazione. L'ordine di arrivo delle istanze non ha alcun rilievo, non conta. L'assegnazione dei contributi sarà effettuata per graduatoria di reddito. C'è tempo dalla serata di oggi fino al 30 di aprile. L'ordine di inoltre di arrivo delle istanze non ha rilievo, si guarda al reddito. Prima si daranno i fondi a chi ha il reddito inferiore. Debora. Bene, allora adesso, tanto per tornare a far arrabbiare invece Giuseppe, che è l'ascoltatore di cui citavo la mail precedente, noi continuiamo la nostra carrellata di consigli per il risparmio dal mondo della consulenza finanziaria che abbiamo interpellato in questo periodo. Il consiglio del giorno è stato assegnato a Sabrina Fratocchi, private banker di Fineco Bank di Roma. Investire informati. Buongiorno, Nell'era in cui dire qualcosa di sensazionale conta più che dire qualcosa di sensato, il mio consiglio per i risparmiatori è quello di dormire sonni tranquilli, soprattutto se si sa per cosa, per quanto tempo e dove si è investito. Se non fosse così, telefonare al consulente e valutare gli aggiustamenti da approntare una volta rientrata la volatilità. I mercati fanno il loro mestiere, i comportamenti degli investitori determinano le performance. Il secondo consiglio che mi sento di dare è non guardare il portafoglio tutti i giorni. È un comportamento autolesionistico che può indurre scelte avventate e irrazionali. La storia ci insegna che a profondi storni sono sempre seguiti importanti recuperi. Non dimentichiamo che il mercato è il luogo ideale dove il denaro si separa dalle tasche degli impazienti alle tasche dei pazienti. In sintesi, hashtag io resto a casa, hashtag io resto sui mercati. Dillo a due di denari. Ho due appartamenti nel Chianti, lavoro con Airbnb e questo è il mio reddito unico. Volevo sapere se c'è qualche fondo in quanto ho avuto le cancellazioni totali di tutta la stagione. Grazie. E allora per questo tipo particolare di attività non è previsto un fondo, bisogna invece guardare qual è la posizione di questo ascoltatore, se in qualche modo, non so, è un artigiano, un commerciante, cioè ha un'iscrizione tale per cui può andare a richiedere, può cercare di richiedere, verrebbe da dire, dopo le vicende di questi giorni, il contributo che viene gestito da INPS. Adesso però è il tempo di andare al primo però argomento. Volevo segnalare, sì, no Mauro, però volevo anche segnalare che Airbnb mi pare di capire che rimborsa il 25% gli affittuari che non hanno potuto mettere la loro abitazione sul circuito. I rimborsi integrali riguardano chi ha prenotato prima del 14 marzo per viaggi fino al 31 maggio e anche gli affittuari appunto saranno rimborsati. Questa è la nuova policy di Airbnb nel caso in cui l'ascoltatore appunto abbia circuitato i suoi appartamenti su questa piattaforma. Precisazione. Ho capito male? No, hai capito benissimo. Precisazione quanto mai opportuna. E allora apriamo il nostro primo tema della puntata. Buongiorno, volevo sapere se ho diritto all'assegno per il figlio, anche se in questo periodo il ragazzo è sempre stato con il padre. E proprio partiamo così, pronti via, con l'avvocato Giorgio Vaccaro. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, avvocato. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Rispondiamo subito in diretta all'ascoltatrice. Che cosa dobbiamo è dire? Sì. Sì, ha diritto all'assegno. Ha diritto all'assegno, perché l'assegno non si sposta in relazione agli spostamenti temporanei del figlio. Rimane fermo, questa è una cosa importante che magari ripeteremo anche successivamente, rimane fermo fino a quando un altro provvedimento del giudice non lo va a elidere o a cambiare. Ecco, ma in questo periodo... Prego Deborah, esatto, prego. Infatti, no scusami, no, è che stavo proprio incuriosendomi sul WhatsApp dell'ascoltatrice. È evidente che l'ex compagno ha messo in discussione questa corresponsione, perché altrimenti l'ascoltatrice non ci avrebbe chiesto aiuto. Forse lui appunto, ritenendo di tenere il figlio oltre il tempo pattuito, diciamo, dal giudice, avrà chiesto appunto all'ex compagna, ci sai che c'è, allora magari riduco un po' l'importo che devo a te. Allora, è importantissima anche questa sua precisazione. Io quello che stavo esprimendo è il principio che deve guidare tutti quelli che stanno per pagare l'assegno in questi giorni, perché entro il 5 del mese gli assegni di separazione e gli assegni per i figli vanno in esazione. Se non c'è un provvedimento di un magistrato che modifica quell'ordine, quell'assegno deve essere pagato, perché altrimenti si incorre in tutte quelle che sono le sanzioni per il mancato pagamento. È evidente che mai come in questo argomento il buon senso dovrebbe aiutare le persone. Esatto. Per cui se il lavoro si è fermato, se il figlio sta dall'altra parte, ci sono delle difficoltà economiche, gli accordi tra le parti possono in qualche modo rendere più facile la vita a chi deve dare dei soldi e a chi deve in qualche modo riceverli e sa che sta mettendo in difficoltà qualcun altro. E la regola, quella alla quale tutti si dovrebbero attenere, è che gli assegni in tema di famiglia, quindi gli assegni per la moglie separata, gli assegni per il marito separato, gli assegni soprattutto per i figli, sono tali e rimangono esigibili fino a quando non interviene un provvedimento del giudice. Tutto il resto sono chiacchiere da bar e cerchiamo di evitarle, perché poi possono portare le persone che devono dare l'assegno ad avere una falsa sicurezza e vedersi poi recapitare alla fine di questo periodo un provvedimento di natura penalistica come quella dell'omissione degli assegni di mantenimento, che non è una cosa divertente, è esattamente come andare fuori e avere una sanzione per non aver rispettato quelle che sono gli ordini di stare a casa. Cioè si apre un procedimento penale, non è una cosa né facile da risolvere né poco dispendiosa nel trovare una soluzione. Allora, avvocato Vaccaro, però sì, lei dice, posto che bisogna pagare, punto, certo, perché la norma è chiarissima, certo, però ci sono coloro che in questo momento, per riduzione dell'attività o tutto quello che può essere, non riescono a pagare, ci sono quelli che addirittura hanno perduto il lavoro e quindi non possono pagare non solo questo mese, ma probabilmente anche nei mesi successivi. Come ci si può comportare? Esistono delle prassi, almeno per ridurre il danno, per dir così. Perfetto, dottor Meazza, è esattamente quello la cosa importante che si può dire. Onde evitare di incorrere frontalmente contro il provvedimento, diciamo così, contro la disposizione penale, è importantissimo far vedere di aver fatto di tutto per poter corrispondere a questo importo. Sono stato condannato a dover dare 500 euro al mese ai miei figli? Ho perso il lavoro, il negozio è stato chiuso, non ho soldi, ho speso in questo periodo tutto perché comunque dovevo continuare a vivere e a mangiare, manderò una somma inferiore ma che dimostra che ho fatto tutto il possibile nella mia economia per evitare che i miei figli non abbiano avuto quell'aiuto che ogni mese gli devo dare. Tento di dimostrare di aver fatto il più che sia possibile. Naturalmente, siccome la norma non ammette pagamenti in quota parte, avrò un problema, ma questo problema sarà ridotto dalla valutazione che poi verrà fatta a valle di questo mio comportamento. La cosa importante, è dimostrare questa buona volontà nel non far mancare i mezzi di sostentamento, i mezzi di sopravvivenza ai figli minorenni. Questo è il discorso. Avvocato, prego. Quello è lo spirito naturalmente del suo monito evidentemente della norma. Avvocato, ma io chiedo, allora, sono in scadenza per il 5 di ogni mese appunto gli assegni di mantenimento, sì, per moglie e figli, molti sono in difficoltà, i suoi telefoni sono bollenti, lei ci raccontava, ricevo almeno 15 chiamate disperate, sì, in tema al giorno e moltiplichiamo appunto questa cifra per tutti gli avvocati che sono occupati di separazioni e affidamenti in questi anni. Allora, ammettendo che io sia un papà e non riesco a pagare l'assegno questo mese, mi metto però d'accordo con la mia ex compagna che non fa storie e tranquillamente capisce la situazione e non pretende appunto l'adempimento dell'impegno finanziario. Il reato scatta lo stesso, nel senso chi lo stabilisce? Cioè il reato scatta nel caso in cui sia l'ex compagna ad evidenziare il comportamento? La risposta è particolare, nel senso che è sempre istanza di parte. E ovviamente se io mi metto d'accordo con la parte che deve prendere il denaro, quindi con la mamma dei miei figli, la mamma dei miei figli una volta che mi ha sottoscritto, una volta che mi ha confermato, una volta che mi ha risposto per email non ti preoccupare, non pagare, non è che mi fa una denuncia il giorno dopo, perché comunque con questo riconoscimento dell'aver accettato la fotografia di una situazione dove io non ho del denaro in tasca mi mette nelle condizioni di poter stare più tranquillo. Ecco, però se c'è qualcosa di scritto, una mail, un messaggino, magari è meglio aver fatto una chiacchierata. Il consiglio pratico è proprio mandatevi delle mail dove riconoscete che in questi mesi si può permettere il ritardo, si può permettere di non pagare. Faremo in modo diverso, ma io quello che dico è che quando io propongo di non poter pagare devo mettermi in condizioni di poter fare accettare questo tipo di condizione. Rispetto a questa situazione di emergenza, molto spesso quello che io sento è che alla fine le parti sono più logiche, sono realiste, cioè sanno che il denaro non sta circolando, sanno che uno che ha un ristorante, se il ristorante è chiuso non incassa una lira. E quello che succedeva 2 mesi fa non è quello che succede oggi, il prossimo mese e chissà per quanto tempo ancora. Quindi è evidente che c'è qualche cosa che non funziona. Allora, e quindi in questa emergenza un accordo con un'email è un qualche cosa che mi permette di dire bene, almeno ho il riconoscimento della parte che deve avere questo denaro, che io non sto facendo un reato, non sto commettendo questo reato in termini volontaristici, insomma, è una situazione che abbiamo fotografato insieme. e c'è la, insomma, uno stato di emergenza che viene in qualche modo certificato, per dir così, o comunque si appoggia su questo scambio di messaggi, di email che si possono avere. Dove non si raggiunga questo discorso, mi perdoni dottor Meazza, laddove non si raggiunga questo scambio di email, l'importante è fare tutto il possibile, cioè inviare con il vaglia la somma che io riesco a racimolare, quello che riesco a racimolare per dimostrare che almeno sotto il profilo così, diciamo, della mia condotta, ho fatto tutto il possibile per far sì che i figli abbiano di che di mangiare. Va bene, allora avvocato, naturalmente la preghiera per lei, come per molti degli esperti che stiamo sentendo in questi giorni, è: non lasci il paese, si tenga a disposizione a disposizione di due di denari e di tutta Radio 24, nonché del Sole 24 Ore. Noi la ringraziamo, siamo un pochino in ritardo, Deborah, perdona, se ci puoi dare rapidamente il punto sulle borse. Basta con questo sessismo che bisogna sempre identificare le donne per l'aspetto fisico. Facciamolo per esempio su Mauro Meazza. Perché è stato assunto qui a Radio 24? Brizzolato. È bello. Bello. Brizzolato. Diciamo che Mauro Meazza lavora a Radio 24 perché è bello. Bello e monello. Due di denari. Buongiorno, a proposito degli agenti di commercio che io ho stampato dal sito dell'Enasarco, parlano di 30.000 euro di reddito, ma si intende netto o lordo? Grazie. Buongiorno, una domanda. Premesso che non sono né fumatore né tantomeno alcolista, volevo capire la differenza fra chi va a comprare tre pacchetti di sigarette ed è legittimato a farlo e chi va a comprare tre bottiglie di vino e viene multato. Volevo capire semplicemente la differenza, se mi aiutate a capire. Grazie, buona giornata. È incredibile la cosa che sta dicendo l'avvocato. In questo periodo in cui abbiamo solo visto notizie più o meno precise, deroghe su deroghe a decreti, su questa cosa continuiamo a restare intransigenti. Inoltre, perché a questo assegno non si dà la possibilità finalmente di essere detraibile dal 730 come quello divorzile? Per quale ragione non lo si fa? Grazie. Quante volte lo abbiamo denunciato anche noi, forse proprio con lo stesso avvocato Vaccaro, la impossibilità di detrarre l'assegno di mantenimento per i figli, vero? Un'incongruenza enorme che andrebbe sicuramente riparata. È uno delle cose che abbiamo citato più volte quando ci occupiamo di queste vicende di diritto di famiglia, perché appunto stona, per così dire, nell'insieme delle varie detrazioni più o meno generose che il fisco concede, il fatto che non sia previsto nulla per questo. Ha sicuramente una sua logica, per carità, che adesso non abbiamo né tempo né, devo dire, il momento di spiegare, però in queste fasi sarebbe auspicabile anche rivedere queste posizioni. Temo che sia un po' tardi per la dichiarazione che andremo a presentare nei prossimi mesi e che ovviamente si basa sui dati del 2019. Apriamo però il secondo tema della nostra trasmissione. Deborah, a te l'onore. Ti ringrazio. Allora salutiamo Enrico Duranti, presidente di Assilea, l'associazione che raggruppa gli intermediari che si occupano di erogazione di leasing. Buongiorno dottor Duranti, io ovviamente semplifico sempre molto la spiegazione ai nostri ascoltatori per far capire di che cosa si occupa l'interlocutore che abbiamo il piacere di sentire nelle nostre trasmissioni. Buongiorno e grazie. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24, è un piacere di essere qui con voi questa mattina. Grazie. Allora, abbiamo molto parlato nei giorni scorsi di come il mondo finanziario bancario si sta mobilitando anche a seguito della moral suasion pubblica, si sta mobilitando per venire incontro a tutte quelle persone, famiglie e imprese, studi professionali, piccole aziende, le partite IVA, appunto per sospendere i finanziamenti in corso che naturalmente, avendo dovuto abbassare tutte le serrande, non sono in grado di restituire. Anche il mondo del leasing è stato direttamente interessato in questa gamma di moratorie che sono state messe in campo. E allora comincio, dottor Duranti, la mia conversazione con lei, cominciamo la nostra conversazione con lei sottoponendole subito un paio di mail che ci sono arrivate peraltro da due ascoltatrici nei giorni scorsi, che chiedevano proprio che possibilità avessero con i canoni leasing che stanno puntualmente rimborsando. La prima domanda c'era arrivata dalla signora Maria, che proprio voleva avere un quadro generale della situazione. Margherita ci aveva scritto: ho un leasing immobiliare per acquisto ufficio. Allora, avete anche voi contemplato una moratoria e con quali modalità si può accedere? Bene, grazie. Allora, premesso che diciamo, la moratoria più importante l'ha prevista il governo con il decreto del numero 18 del 17 marzo 2020, in cui l'articolo 56 prevede la sospensione di rate di finanziamenti e canoni di leasing fino al 30 settembre 2020 per qualunque soggetto imprenditoriale, in esso quindi comprese sia ditte individuali che liberi professionisti. Quindi se la signora Margherita si riferiva appunto a un leasing immobiliare uso ufficio diciamo acceso o nell'ambito di un'associazione di professionisti o nell'ambito di un professionista singolo con partita IVA, sicuramente ricade nelle previsioni di questo articolo 56, che consente appunto al cliente di sospendere il pagamento della rata o per la sola quota capitale o anche per la quota interessi. Quindi qualunque, diciamo, canone di leasing che venisse a scadere a partire dal 17 di marzo del 2020, quindi tendenzialmente 31 marzo, no, poi 30 aprile e così via, tendenzialmente i canoni di leasing spesso sono mensili, vengono sostanzialmente slittati a partire poi con un pagamento che ricomincerà a partire dal 30 di settembre 2020. Questo è per legge, quindi non è una facoltà della banca o società di leasing concederlo o non concederlo. L'unico criterio è diciamo quello che il richiedente dichiari, quindi autocertifichi due cose: di essere una piccola e media impresa oppure un libero professionista oppure una ditta individuale, evidentemente a maggior ragione, e di aver avuto un impatto negativo sulla liquidità dovuto all'emergenza sanitaria. In più bisogna, da parte dell'intermediario finanziario, verificare che la sua posizione di debito verso l'intermediario fosse in bonis, cioè che non fosse già un credito deteriorato, perché questa previsione vale solamente per i crediti non deteriorati. Quindi da questo punto di vista la previsione governativa è potente, forte, per tutto quello che sono le necessità di sospendere delle uscite di cassa da parte dei clienti leasing. Sapete già più o meno quanti stanno ricorrendo a questa sospensione, Presidente Duranti? Sono arrivate tantissime domande e quindi le dico che tutte le società di leasing sono fortemente impattate dal punto di vista operativo, perché abbiamo creato dei processi molto semplificati per gestire in maniera massiva tutte queste domande, ma naturalmente un minimo di procedura va fatta, quindi stiamo parlando di tantissime, diciamo, le aziende di leasing più importanti possono avere nel loro portafoglio 25, 30, 50 mila contratti di leasing. Pensi che, insomma, una quota molto significativa di questi sicuramente chiederà la sospensione, perché in realtà o le aziende sono chiuse per decreto, come sapete molti codici Ateco rientrano nelle attività che devono stare ferme, ma anche i codici Ateco che sono attivi perché sono, diciamo, funzionali alle esigenze della popolazione, anche quelle aziende lì hanno il loro fatturato decurtato, perché una parte del loro lavoro evidentemente andava nei confronti di magari altre aziende che invece sono ferme, per non parlare dei pagamenti che naturalmente sono rallentati. il vero problema delle aziende in questo momento è sostenere l'esigenza di capitale circolante per crediti che non vengono incassati con la stessa, diciamo, frequenza di prima, e poi di anticipare per le aziende ferme la cassa integrazione in deroga. Insomma, queste sono, a mio avviso, le esigenze immediate. Benissimo, allora la ringrazio, ci fermiamo un istante perché come sempre al 45esimo è il momento delle informazioni sulla viabilità, ma torniamo tra pochissimo anche con le vostre domande che ci state inviando, 349-238-6666 per sms e whatsapp, 800-24-0024 per quanto riguarda il numero verde, e adesso il traffico. Di denari. Eccoci ritrovati in diretta. E allora, Mauro, avevo una curiosità per il presidente Duranti. Naturalmente abbiamo ancora una decina di minuti di tempo, quindi invitiamo gli ascoltatori che avessero bisogno di una risposta diretta a chiamarci all'800 24 00 24. Peraltro devo dire che Assilea ci dà anche una mano a microfoni spenti, come tanti consulenti, tante organizzazioni in questo momento, le associazioni dei consumatori. Lo ribadisco ancora, il pronto soccorso di Due di Denari si apre nel pomeriggio e funziona a pieno ritmo anche il nostro, ahimè. Presidente Duranti, le volevo chiedere, a prescindere da quanto contemplato dal decreto Cura Italia, l'articolo appunto 56 che lei ci ha citato poco fa, in realtà il sistema era interessato anche in una fase precedente alla moratoria dell'ABI, che consentiva lo stesso di chiedere la possibilità di sospendere eventualmente il rimborso dei canoni leasing, così come appunto degli altri finanziamenti previsti nel caso in cui un'azienda appunto avesse avuto bisogno. Una moratoria già esistente che era stata rinfrescata e riaggiornata a fine gennaio. Allora, ammettendo di avere una persona che ci ascolta e che sta fruendo di quella possibilità, secondo lei vale la pena interrompere l'adesione alla moratoria ABI per aderire a quanto previsto appunto dall'articolo 56 del Cura Italia? Come sono messe in rapporto le due opzioni? Ecco, se ci può spiegare anche questo aspetto. Sì, allora, premesso che naturalmente l'accordo di moratoria ABI è arrivato prima e quindi non poteva conoscere esattamente quali sarebbero stati i contenuti del decreto. Il decreto è più potente, evidentemente, perché oltre, non l'ho detto prima, ma sulle rate sospese consente alla società di leasing di avere anche una garanzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia, per al momento è un terzo, il 33%, con una garanzia sussidiaria. Si parla forse nelle modifiche al decreto addirittura di portarla al 50% e forse renderla anche una garanzia a prima richiesta. Quindi da questo punto di vista è più potente, è più rapido, ed è soprattutto, senza ombra di dubbio, perché c'è scritto nel decreto, esimente per le banche rispetto a questa famosa classificazione a forbearance, che ai radioascoltatori naturalmente vuol dir poco, ma nella sostanza costa tantissimo alle banche in termini di accantonamenti. Quindi da questo punto di vista è molto più facile e direi consigliabile operare immediatamente la sospensione ex articolo 56 per appunto tutte le PMI, i liberi professionisti che ne hanno diritto, e poi eventualmente al termine, diciamo, di questo periodo immaginare di utilizzare altri strumenti, tra cui sicuramente la moratoria dell'ABI. Presidente Duranti, ci riepiloga, te lo chiedono diversi ascoltatori, la prassi operativa per richiedere invece la vostra moratoria, cioè la moratoria proprio stabilita dal decreto Cura Italia, il decreto 18? Sì, sì. Guardi, ogni società può aver, diciamo, operato in maniera diversa, però sostanzialmente il cliente atterra sulla landing page, sul sito della società di leasing. Tendenzialmente sul sito della società di leasing trova già gli allegati intesi come il format di richiesta, così come il format di autocertificazione, una PEC normalmente, un indirizzo PEC a cui inviare questa richiesta e da lì sostanzialmente il processo parte in maniera pressoché automatica, direi, su tutte le società di leasing, perché tutti quanti adesso, grazie anche all'intervento dell'associazione, tutte le società si sono, come dire, hanno operato in modo da rendere il processo il più fluido possibile, per facilitare soprattutto la velocità, perché come giustamente ha detto più volte il governo, qui il tema è di arrivare subito a fermare le emorragie di cassa. Adesso le chiamo emorragie nel senso che un pagamento di un canale di leasing è per un cliente del leasing chiaramente un'uscita, e quindi dobbiamo concedergli di fermare l'uscita prima di tutto. Esatto, di stopparla almeno per qualche mese, di modo da dare, da non gravare ulteriormente in questa fase di emergenza. Esattamente. Deborah. C'è una domanda che ci arriva tramite mail da un ascoltatore, Paolo, e questa è interessante perché mi stavo chiedendo, Presidente, ammettendo che non tutti volessero fruire in questo momento di questa opportunità perché magari hanno in cassa liquidità necessaria per assolvere all'impegno finanziario del mese e quindi versare regolarmente il canone di leasing, ma così ipotizzando che le difficoltà di liquidità possano intervenire prossimamente, e questo purtroppo capiterà a molti professionisti. E allora Paolo ci chiede: ci sono limiti di tempo per la richiesta di sospensione del finanziamento fino al 30 settembre per auto aziendale? Dice lui, per esempio, io potrei fare eventualmente la domanda a giugno. Immaginiamo che Paolo al momento possa continuare a rispettare il suo impegno, ma immagina che potrà essere in difficoltà prossimamente. Sì, mi pare che da questo punto di vista Allora, no, la domanda può essere fatta fino al 29 settembre, per dire, ma lo dico per assurdo, insomma. È chiaro che siccome la scadenza, diciamo, della sospensione è il 30 settembre, io prima lo faccio e più rate vado a sospendere, più canoni vado a sospendere. È chiaro che se quindi non è che se lui fa la richiesta a settembre e poi gli partono da lì sei mesi di sospensione, no? No, i sei mesi di sospensione partono, esatto. No, e quindi il tema è farla subito la richiesta. Se, peraltro gran parte, credo, delle società di leasing stanno anche dando un'ulteriore facilitazione. Se io anche faccio la richiesta ad aprile, ho già pagato per esempio il canone di fine marzo, può essere richiesto il rimborso di questa canone alla società di leasing, in modo tale che sostanzialmente la richiesta diventa anche retroattiva. C'è un ascoltatore, Presidente Duranti, che ci segnala una cosa che lei in realtà mi pare ci abbia già spiegato prima. Dice: questa società di leasing mi chiede di compilare una sua modulistica, ma in questa modulistica è già prevista la modalità di rientro delle rate sospese. L'ascoltatore chiede se è corretta questa procedura da parte della società. Il rientro delle rate sospese è sostanzialmente dilazionato, quindi come ho detto prima il piano di ammortamento tecnicamente slitta dello stesso numero di mesi o di settimane rispetto alla scadenza del 30 di settembre. Quindi se io l'ho fatto il 31 di marzo, questa sospensione slitta esattamente di 6 mesi, slitta di 5 se l'ho fatta il 30 aprile e così via. Non è corretto che ci sia già predisposto obbligatoriamente se la sospensione riguarda quota capitale e quota interessi, perché di nuovo il decreto stabilisce che è scelta del cliente se sospendere entrambe le quote del canone o semplicemente solo la quota capitale. Quindi si può. Però, Mauro, prego, Deborah. Sì, no, stavo pensando che bisogna proprio spiegare molto bene che si tratta di uno slittamento del pagamento di queste rate. Non è che la sospensione di questo mese significa che lo Stato te le cancella perché viviamo questa situazione di straordinaria emergenza. Va puntualizzato questo aspetto perché mi pare di capire che qualcuno non lo abbia ancora ben assorbito. No, se posso precisare, il decreto cura aspetti di liquidità, non di conto economico, quindi la liquidità viene, diciamo così, iniettata nel sistema in due modi: con il 56 perché si sospendono le uscite, con per esempio il 49 dello stesso decreto attraverso altri strumenti che possono peraltro riguardare anche il leasing. Ma non è un aiuto dal punto di vista del conto economico, Certo, non, quindi, viene, non viene abbuonata una, due o sei rate, non sono condonate, per così assolutamente dire. Assolutamente no. Vanno, sono dovute, è un po' quello che accade, un po' come per i mutui prima casa, per farci capire, Presidente. Cioè, sospendo, il Fondo Gasparini sospende l'applicazione, ma poi uno ricomincia. E così anche per le rate del leasing, è il senso. È corretto. Faccio un'ultima precisazione, il decreto parla di piccole e medie imprese, che chiaramente sono la grandissima parte delle ditte italiane. Non ci dimentichiamo che ci sono anche delle aziende che sono medie e grandi, che pur essendo numericamente molto inferiori, però danno lavoro a tante persone e soprattutto rappresentano una quota parte importante del PIL italiano e del valore aggiunto. Ecco, noi come diciamo Assilea stiamo sostanzialmente assimilando le previsioni del 56 anche alle altre aziende, perché sarebbe abbastanza paradossale creare problemi invece di liquidità alle aziende più grandi, che poi essendo spesso e volentieri capifiliera delle filiere industriali andrebbero inevitabilmente a creare problemi di liquidità alle aziende più piccole, magari loro fornitrici. Scusi se lo ripeto e mi corregga se sbaglio nel riassumere, l'articolo 56, cioè la sospensione non significa condono, sospensione delle rate del leasing, voi lo state applicando anche ad aziende che non sono necessariamente le PMI, è così, le società di leasing stanno facendo questo? Sì, ce lo stanno richiedendo anche le altre, pur non essendo previsto dal decreto, lo stiamo facendo. E poi c'è la possibilità, diceva lei, con un altro articolo del decreto legge 18, di accedere a nuovi leasing, quindi uno può sospendere da una parte e contemporaneamente accenderne di nuovi? Sì, articolo 49 prevede in questo caso la possibilità di fare nuovi finanziamenti, nuovi leasing. In questo caso anche qua con il beneficio molto forte, molto potente della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, diciamo fino a 1,5 milioni per impresa con la garanzia dell'80% e poi mano a mano a scalare con cifre che al momento arrivano fino a 2,5 milioni di importo garantito, sempre per totale impresa. Quindi diciamo che se c'è un'azienda che deve anche fare dei nuovi investimenti, mi viene in mente per esempio a queste aziende del settore, no, della meccanica, alle quali è stato chiesto per esempio Presidente, quindi concluda, prego. Cioè se un'azienda diceva vuole fare un nuovo investimento. Deve fare nuovi investimenti, può ottenere anche in leasing questo tipo di facilitazioni ai sensi dell'articolo 49. Grazie al Presidente Enrico Duranti. Debora, per il fine settimana ti consiglio di scendere un attimo, andare in edicola.